questa storia, domandati perché. Ricerca nella memoria quello che fu di te. Vincenzo, volevo dire che amo un casino la mia stellina Vali. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé il genio, il potere e la magia. Incomincia adesso. Johann Wolfgang Goethe. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Sono Marco da Milano. Suona un brano potente, potente, potente, potente, potente, potente. Con dedica a tutti i camionisti. Com'era? Gigi, se non ci fossi tu con il cammino, come farei a guidare il furgoncino? Io non so. Nico Padova. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Gigi, ma se non fai un caso. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? Li puoi leggere due messaggi? Nulla facente. Eh? Non mi ti consumi. Che dici? Gio da Vigo. Stasera, giovedì 7 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia, dalle ore 22. Lascia che sia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Chi non ha uno scopo non prova quasi mai diletto in nessuna operazione. Giacomo Leopardi. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Simone da Bologna. Volevo dedicare una canzone a mia mamma Rosanna, che sicuramente vi sta ascoltando. Tesoro Yasna compie 22 anni. Le dedicheresti una canzone per dirle che le voglio un'infinità di bene? Ale da Torino. Genio crea concordanza tra il mondo in cui vive e il mondo in cui vive lui. Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal. Leggi bene, se no ti estraggo le ginocchia. Ho la foto. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Saluto a Micina, la stella che mi guida al cuore. Chi è questo qua? Erpianola. È il cammino del Gigi D'Agostino. Sono se lo suona Gigello. Che rima. Inco Dance. Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, dalle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte. Discoteca Lagar, Torino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Voglio dire a Jacopo che è un gran pezzo di gnocco. Sì. Da una della prima è. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano. Area, sulla mano. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata, un colpo di martello, Magaldi da Bella Vista, Siena. È come se tutto fosse strano. Area, sulla mano. È come se tutto fosse strano. Area, sulla mano. Per Gigi D'Agostino. Area, per Gigi D'Agostino. Sulla mano. Per Gigi D'Agostino. Area, per Gigi D'Agostino. Sulle mani per Gigi D'Agostino. D'Agostino. Area per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Area per Gigi D'Agostino. Se area. Se area. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... Ciao, sono l'inventore del lento, violento. E me ne vento. Fermamosi un momento. parte maestro Corteadro Erburattino. Gigi D'Agostino. Gigi, volevo mandare un saluto speciale a mia moglie Lorena, Tamarra Bizzarra. Tamarra Bizzarra. Che ti starà sicuramente ascoltando. Tuo Francesco. Musica che unisce. Ciao, sono Giulia di Cava. Volevo mandare un bacio al mio amore Stefano. Oggi è il primo giorno che stiamo insieme e voglio fargli il regalo di farlo salutare da te, Gigi. Ciao. Poche cose sono impossibili se si è diligenti e dotati di capacità. Le grandi opere si compiono non con la forza, ma con la perseveranza. Ma con la perseveranza. Samuel Johnson. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Vorrei fare gli auguri al mio amore Dede. Un anno e 7 mesi con te sono una realtà. Ti amo tantissimo, amore mio. Fede. Il cammino di Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia. Si può essere ossessionati dal rimorso tutta la vita, non per aver scelto l'errore, di cui almeno ci possiamo pentire, ma per essersi trovati nell'impossibilità di provare a se stessi che non si sarebbe scelto l'errore. Umberto Eco. Vivo a Modena, ma sono di Torino. Grazie a te, muore la malinconia per i nostri posti. Rinaldo. Il

Evviva! Tanto è un videogioco. The Sims 2 Pets. Crea e fai vivere cani e gatti nell'incredibile mondo dei Sims. Da Electronic Arts per PC, PlayStation 2 e console portatili. Ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, è ora di Francesco Rossi Selection Volume 2. Francesco Rossi. La creatività, l'energia. In 80 minuti di sound electro minimal. Francesco Rossi Selection Volume 2. La compilation distribuita self. M2O. Musica allo stato puro. Sali in sella. È suonata la campanella. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che pesta, che unisce, che pesta. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Voltaire. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. La tua musica riempie le mie padelle in cucina. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino, non è un brodino. El Cogo da Castelfranco. Un saluto dal tavolo, gli amici di Gigi, Fanto, Ari, Alex e Luca. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Minchia, questi non sono noccioline, ma boom a mano. Cerca il freno. Ferma un posto treno. Tutti gli stili sono buoni, tranne lo stile noioso. Voltaire. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sono il Vege da Milano. Volevo salutare il mio amico Mimmo e dirgli che sono felice che abbia trovato una bella ragazza che lo curi come si deve. Molti pensano che avere talento sia una questione di fortuna. Nessuno viene in mente che la fortuna possa essere questione di talento. Giacinto Benavente I Martinez. Do la pota. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Ad Adelaide, agile come una gatta, che sciatta per un'ora esatta. Con affetto, Roberto e Maria. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Tilviano da Forlì. Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18. Su M2O. Gigi, vorrei salutare Maurizio, il miglior pilota del mondo che segue a grandi velocità il tuo cammino. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Amare e scegliere. E scegliere. E scegliere. Joseph Rhodes. Il cammino di Gigi D'Agostino. Questa sera, giovedì 7 dicembre, Gigi D'Agostino suona a Pavia. Discoteca Metropolitan, Casteggio, Pavia. Dalle ore 22, lascia che sia. Este programa musical mental, ole, me gusta mucho más que cacho. Signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Andiamo, regà! La tendenza umana a considerare le piccole cose come importanti ha prodotto molte cose davvero grandi. Christoph Lichtenberg. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Rocco, sei forte. Lascia stare Marta. Alzati e vai avanti. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Mentale. saresti diventato. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. Oh! Chiappa la penna e scrivi il numerino. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 2 2. Allora sesta, c'è la musica che pesta, muovi un po' la testa. Sono Marco, vorrei dedicare un lento violento a Carmen. Gigi D'Agostino. Alla faccia di chi ci vuole male e non distingue lo zucchero dal sale. Saluto Maurizio che ti ascolta al lavoro. Mary da Treviso. L'8 e il 9 dicembre Gigi D'Agostino suona in Austria. Venerdì 8 dicembre discoteca Starlight, Walls Salzburg. Sabato 9 dicembre discoteca Nachschied, Innsbruck, Austria. Ci vediamo lì. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Roberta, per me amore vuol dire aver incontrato te. Da quando non ci sei più, non sono più lo stesso, perché mi manca una parte di me. Stai con me, ho bisogno di te adesso. Non ce la faccio più ad aspettare. Ho capito che solo insieme risolveremo i nostri problemi. Ti amo. Beppe 82. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Thank you.

Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, alle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte. Discoteca La Gare, Torino. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. È impossibile restare del tutto senza amore, anche se fatto solo di parole, è pur sempre un amore da vivere. Duras. Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ti amo. Jessica 841 da Torino. D'Agostino. Musica che unisce. Ciao Gigi, io e mio fratello Tony ti ascoltavamo sempre insieme. 6 anni fa ha avuto un incidente. La tua musica risveglia in me i ricordi di quei tempi. Ora gli faccio ascoltare il tuo cammino, sperando che si svegli dal sonno profondo in cui si trova. Non smetterò mai di sperare. Sabrina, 26 anni, Torino. We'll be right back. cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Giorgia, mi hai stregato. Ci vediamo oggi a diritto. Giovedì 7 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Volevo dire con una canzone di Gigi che amo da morire il mio ragazzo Roberto. Sei la mia vita. Valeria da Roma. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.